risuona, Ugo, ti dico, sono qui con te. Non ti spieghi il perché, Ugo, sono qui. E allora, tu inseguita, risuona, ti dico. Sono qui con te. Non ti spieghi il perché. Sono qui. Allora, tu inseguita, risuona, ti dico. Stringerti.